e l'autismo. Credo che il professor Ricciardi abbia risposto. Noi abbiamo posto un problema che ha avuto rilevanza giuridica. Mix 24. Pietrangelo, Pietrangelo non c'è a Milano, ma da Milano ci commuove sempre. Eccomi, eccomi. Allora, questa canzone, perché ci sono alberi che spuntano dentro casa, qualcuno ha radici e cerca il cielo dove alzare le cime, altri invece sono solo tronchi, attendono di diventare ceppi per il cammino, e infine c'è la plastica, la cui unica patina è la polvere, e sono luccicanti solo per riflesso altrui, come le lucine, che sono l'unica metafora del tempo d'avvento. E di plastica può essere perfino l'amore, che dovrebbe essere forte più di ogni perplessità, ed è un fuoco che tenta ad accendersi, è l'unico albero che cresce nel cuore, è l'amore che trova cielo nel sangue. Non affievolisce la vena poetica, no, resiste anche a Milano. Il tempo fa a Milano, Pietrangelo? C'è un tempo tutto velato di malinconia. Ah, va bene, allora andiamo con le nostre bolle. Andiamo, va. Ho scelto di fare questo discorso a Camere Congiunte per annunciare le dimissioni, le vostre dimissioni. Ho prove, nomi, cifre di tutte le vostre ruberie. Il regalo a chi è rimasto pulito. Oh, discorso finale di Bisio, benvenuto presidente, certo. Quanto mai attuale, devo dire, visti i tempi che corriamo e che corrono. Beh, insomma, facciamo un recap, un piccolo ricapitolazione di che cosa sta succedendo nella politica giovanile. Lo facciamo insieme. Allora, è chiaro che ci sono le prove tecniche per il Quirinale, vabbè, no? Non c'è dubbio. Renzi ha visto Prodi, lui si dice non disponibile, dice abbiamo parlato solo di politica internazionale, vabbè è una tattica interessante, no? Non sappiamo, a sinistra, non sappiamo cosa ne pensa Renzi. In realtà Berlusconi, però io sono per un vecchio detto che la pace si fa sempre con il nemico e non con un altro. Dopodiché vediamo che cosa succede. Tu che pensi? Io penso che si è cominciato veramente un movimento tattico su tutti i fronti, sia da parte di Berlusconi che da parte di Renzi. Secondo me Prodi ha delle carte. Io credo che alla fine troveranno l'accordo. Anche secondo me. Nel frattempo il debito pubblico, l'avete visto, sale. Lo Stato oggi in un solo giorno, lo ricordiamo, l'abbiamo detto, incassa 44 miliardi di tasse, vorrei sottolineare. Pressione fiscale nei prossimi anni invariata, secondo il DEF di del governo Renzi. Napolitano ha un paio di appuntamenti ancora, dirà parecchie cose. Oggi alle 17.30 incontra i rappresentanti delle istituzioni, partiti eccetera, e vedrete che farà un discorso piuttosto puntuto. Il 18 tradizionali auguri alle 11, tradizionali auguri con il corpo diplomatico, e anche lì vedrete, dirà alcune cose sulla politica estera eccetera. È, diciamo, il long goodbye, è il lungo addio di Napolitano alla presidenza. Segnalo che nel frattempo in Libia, centro dei nostri interessi energetici insieme alla Russia, sta succedendo di tutto. La guerra è riuscita a far rimbalzare il prezzo del petrolio l'altro ieri, oggi di nuovo in caduta libera eccetera. Però è molto interessante perché la Libia è diventato un punto caldissimo che riesce a influenzare perfino le quotazioni, perché come si interrompe la produzione si registra subito una variazione. Ecco Mario, una cosa che chiedono i nostri ascoltatori, che non capiscono neanche io francamente, perché so già perché con il prezzo del petrolio che crolla il prezzo della benzina non si muove. Perché, ahimè, perché ahimè noi siamo un paese che ha due grandi anomalie. La prima anomalia è che abbiamo il 63% del prezzo della benzina che è fatto di componente fiscale. Il prezzo industriale in realtà è soltanto il 37%, e di questo 37% il margine in realtà, vabbè, insomma, è pari solo, dici, al 12%. Tu mi dici, poveri petrolieri, vabbè. No, non poveri petrolieri, no. Il problema è tutto là. Se tu vuoi manovrare sul prezzo della benzina, devi assolutamente elevare tutto questo peso fiscale. Questo è il punto. Bolla. Voi, questo riscaldamento globale mi distrugge. Ora è troppo caldo, l'era glaciale era troppo fredda. Possibile che non c'è un modo di farti contento? Di chi è il Polo Nord? Lo combattono, no? Molto, molto interessante. Allora, la Danimarca ha deciso di fare richiesta formale per avere un pezzo di sovranità sul Polo Nord. Uno dirà, vabbè, ma c'è il ghiaccio. Vabbè, a parte che già il ghiaccio di per sé significa acqua, quindi una cosa importante. Ma voi potete immaginare cosa succede tra Canada e Russia, che hanno i confini da quelle parti. Comunque i danesi vogliono 900.000 km quadrati di una zona vicina alla Groenlandia. Perché questo interesse sull'Artico? Torniamo a una delle domande, appunto, che mi facevi tu. Secondo uno studio americano, il 30% del gas e il 13% dei giacimenti di petrolio sono ancora là sotto. E ci sarà una bella lotta. Molto interessante. E intanto Salamino. Salamini da Olimpiade. Allora, l'incontro Renzi-Prodi lo dobbiamo considerare come lo start, ed è l'inizio della corsa al colle, e si comincia proprio con un non candidato, con una non strategia, per dirla con Antonella Rampino oggi, e in verità quella della Quirineide è il vero argomento per convincere il mondo a dare le Olimpiadi a Roma. Si comincia perciò con la gara per le elezioni della Presidenza della Repubblica, quindi con le gare d'appalto, e un mucchio di medaglie d'oro sono pronte per il sollevamento della monnezza. Le strade dell'Urbe ne sono piene per consentire ai cittadini un continuo allenamento, così come le buche, ottime per il salto in lungo, il salto in largo, e in giornate di pioggia ottime per farci una nuotatina dentro. Allenamenti di lotta libera si possono fare a Tor Sapienza, quelle di scherma direttamente a Campo dei Fiori, possibilmente non con gli obsoleti fioretti, ma con le bottiglie di vetro sbrecciate. Nessuno si osi a voler immaginare impossibile l'impresa della gara staffetta, non sarà fatta però col bastoncino, bensì comodamente seduti a guidare il pandino, quello rosso del sindaco Marino, così da non avere problemi di parcheggio. La verità è sempre una: Nerone ci vuole, Nerone! Più bella e più superba che Pria. Sara, tocca a te. Sono passati più di due anni e anche questa volta siamo costretti ad essere presenti lì in Italia solo attraverso una webcam. Abbiamo obbedito a degli ordini ed oggi siamo ancora qui presenti. Abbiamo mantenuto una parola, quella che ci era stata chiesta di mantenere, e che ancora con dignità e onore per la propria nazione la continuiamo a mantenere. Noi vorremmo che venga riconosciuta prima di tutto la nostra innocenza. Ogni militare deve sapere di essere tutelato dalle proprie immunità. Ecco, era Salvatore Girone. Parlava così il 2 giugno alla Commissione Esteri e Difesa di Senato e Camera, perché noi ci siamo messi da parte un po' tutte le frasi e i momenti salienti di questa storia dei due Marò. E mentre fuori sfilavano l'esercito e le forze dell'ordine per celebrare la festa della Repubblica, dentro, il modo scelto dal governo per sostenere in modo significativo i nostri Marò è stato un bel collegamento Skype. Oggi come allora la situazione non cambia, la corte indiana dice no per tutto e l'Italia ingoia. Senti Mario, sì. Abbiamo Michele che ci dice che a Castelfranco Veneto la benzina è 1,46 e quindi un po' scesa. È un po' scesa, bene. No, è vero. Mix 24. Il canzoniere. gaudio, Lamarti, illimitato gaudio credere al riso dei tuoi occhi e vertigine ancora la certezza d'essere da te cantata o più tardi, negli anni non più miei, orché tremar la vita sento sul ciglio estremo. 800240024, il numero verde, 349-238-6666, l'SMS, ancora una bolla, Mario? Sì, vai. Plaza della Maestranza, a Siviglia. Le corride di primavera vi richiamano gli aficionados di tutta la Spagna. Qui, in un misto di tragedia e di entusiasmo, di sangue e di ebbrezza, troveranno pane per i loro denti. Pane per i loro denti. Minacciosissimo, tocca a Pepe Luis Vasquez. Pepe Luis Vasquez. E tu dirai, che è questa roba? È la corrida di Google in Spagna. Allora, vabbè, tutti i TGGR hanno detto che Google lascia la Spagna. Tutto vero. Peccato, perché bisogna leggere le notizie fino in fondo, secondo me. E la cosa interessante, o comunque stare sul pezzo, come si dice in gergo, la cosa che è interessante è che dopo gli intelligentoni degli editori tedeschi, no, che avevano detto Google non indicizzi più, benissimo, Google non ha più indicizzato, dopodiché sono andati in ginocchio a chiedergli di trovare un accordo per indicizzare, perché il loro traffico web era letteralmente crollato, benissimo, gli editori spagnoli stanno per fare la stessa cosa, o meglio, hanno chiesto al governo di intervenire e cercare di aprire una trattativa con Google e quindi di ripensarci in qualche maniera. Allora, qua bisogna chiarire una cosa. Per combattere Google devi fare un motore di ricerca alternativo. Non c'è dubbio. Non ce n'è. Europeo. Allora, se fanno questo, stanno sul mercato. Questo è l'inizio di un percorso. Io sono d'accordo per farlo, anzi spingo faccia, ma se non fanno questo, sono solo chiacchiere senza neanche distintivo. Quindi l'inizio di una questione che si diano da fare, signori editori, che si deve porre prima o dopo. Ancora un salamino. Salamini di politica. Salamino. Raffaele Fitto, che è il capo dell'opposizione interna in Forza Italia, è andato pesante contro le scelte politiche di Berlusconi. Allora, ha detto che un errore oscillare tra il sostegno a Renzi e l'opposizione pro forma, a maggior ragione poi in tema come la flat tax che è senza coperture. Dice poi, sbagliato il cosiddetto cantiere della libertà. A proposito di cantieri, mi ricorda sempre quella definizione di Ettore Petrolini, un amico mi ha portato al cantiere, non cantava nessuno, erano tutti ad ammazzarsi di lavoro. Mentre l'altro Matteo, a proposito di cantiere della libertà, e quindi Matteo Salvini, mangia in testa ai forzisti. Allora, dice, è sbagliato dire no alle primarie, a partire dalla Puglia, dove però Silvio Berlusconi vorrebbe inchiodare Fitto, candidandolo alle regionali per dimenticarlo definitivamente. La risposta di Fitto alla proposta non disinteressata di Berlusconi è sempre la stessa. No. Fugge da Foggia! Fugge da Foggia, no per Foggia, ma vi fugge perché sana Foggia. Fugge da Foggia, no per Foggia. 1943, dopo l'armistizio dell'8 settembre, Mafalda di Savoia, la figlia del re Vittorio Emanuele III, viene catturata e deportata nel campo di concentramento di Buchenwald, dove morirà. Io parlavo anche con Kapla, ha detto che aveva anticipato la sua partenza perché nostro padre aveva richiesto la sua presenza subito in Germania e che lui doveva occuparsi di noi per spedirci poi per conto nostro in Germania. Ecco, questa era la voce di Enrico D'Asia, il figlio di Mafalda, morta a Buchenwald. Ecco, oggi con Marina Milone ricostruiremo il mistero della morte di Mafalda, una pagina oscura della storia d'Italia e della famiglia dei Savoia. Intanto abbiamo Giuseppe da Gallarate. Giuseppe da Gallarate, buongiorno. Salve, per il canzoniere, buongiorno. E allora? E l'allieramo. Fantastico, benissimo. Che fa Gallarate lei? Beh, ora sto lavorando, diciamo. Che lavoro fa? Io lavoro in un comune. In un comune? Le lasciano sentire la radio? Sì. Sì, Butta folk per me è come Mozart per le mucche, diciamo. Ah, accidenti, proprio. Grandioso, eh? Grazie, grazie, grazie, buon lavoro, grazie, allora, grazie, buon lavoro. Grazie. Sara, ancora te. Oh, Dio. Oh, che meraviglia. Sì, sì, sì, così. Oh, oh, Dio. Oh, sì, sì, ancora, ancora. Oh, oh, sì, sì, sì. Oh, sì. Oh, oh, oh, oh. Quello che ha preso la signorina. A quanto pare siamo tutti un po' Meg Ryan, perché le coppie italiane affinano tecniche di emulazione più che di eccitazione e godimento. Giuro, l'ho letto stamattina su Repubblica. Sei rimasta impressionata? Sì, sì, sì. Mi sono accorta che la situazione è grave, ragazzi. Ah, sì? Cioè, sono aumentate del 15% le coppie che chiedono aiuto a un sessuologo, che a loro volta, nel frattempo, sono aumentati e adesso se ne contano 1500. E quindi, con tutti questi sessuologi, che si fa? Si fa dall'anno prossimo a Tor Vergata un bel corso che si chiamerà Sex Cat. Ah, allora, non ex cattedra. Sex cattedra. Scritto CS, tra l'altro. Sì, sì. Allora, se devo fare un po' quella diffidente, dico: ma non è che si sono inventati sti furboni un altro bel business? Però... invece, se voglio fare la riflessiva attenta alle dinamiche della coppia, dico: ma non è che il fatto che uno dei problemi più grandi è il calo del desiderio vuol dire che non ci riconosciamo più? Cioè, abbiamo talmente cambiato. Cioè, perché quando parli di calo del desiderio guardi me? Cioè... parlavi stamattina del dramma dei cinquantenni. Sì, ma io, a parte che sono lontano dai 50, ma puoi non guardarmi così, perché? No, ma perché mi aspetto una risposta da me. Ma figuriamoci. Vabbè, insomma, dobbiamo cercare di ritrovarci un po' e di non mischiare così tanto i nostri ruoli, secondo me. Ma non sono sessuologa, No. Vabbè, per fortuna. Non mischiamo i ruoli, però. Non mischiamo i ruoli, e per finire sentiamo Tenco, vedrai, vedrai. Vedrai, vedrai. Vedrai che cambierà. Forse non sarà domani.